Mi Buon pomeriggio a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24, questa è la nostra prova del suono, appuntamento numero 126. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo. Allora, subito vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica per inviare le vostre mail e naturalmente per ricevere poi tutte le informazioni che riguardano il nostro repertorio musicale, che oggi prevede in apertura la celebrazione di un grande vocalist del jazz e del blues, un omone di proporzioni abominevoli, ovvero il meraviglioso Jimmy Rushing, nato a Oklahoma nel 1901, scomparso l'8 di giugno del 1972. Per la prima volta si ritrova davanti a un pubblico esattamente nel 1924, dove propone una sua performance al pianoforte. Viene coinvolto subito da vari organici orchestrali fino ad approdare alla grande orchestra di Count Basie, per la quale milita per diversi anni intorno agli anni 40. All'inizio degli anni 50 incontra Buck Clayton, celebre trombettista della storia del jazz, e quindi è in tournée proprio con l'orchestra di Buck Clayton. Jimmy Rushing aveva come nomignolo 5x5, ovvero era 5 feet tall, alto 5 piedi, ma anche 5 feet wide, cioè era grande e grosso 5 piedi. Quando saliva sul palco, Jimmy Rushing proponeva non solo la sua vocalità potentissima quando cantava il repertorio del blues, ma anche una sensibilità particolare in brani più vicini agli standard di jazz e alle ballad. Quando saliva sul palco, Jimmy Rushing oscurava parte dell'orchestra. Sì, un omone gigantesco, ma dotato di grandissima sensibilità e anche di un senso dell'umorismo non comune, e soprattutto un senso dell'umorismo che oggi non si ritrova così facilmente nel jazz, ma nella musica in generale. Eccolo qui al soundcheck di Radio 24, Jimmy Rushing accompagnato dall'orchestra di Buck Clayton in due brani tratti dal suo repertorio storico, Baby Won't You Please Come Home e subito dopo Dr. Blues. Jimmy Rushing al soundcheck di Radio 24. You're listening to Soundcheck. Brani storici tratti dal repertorio di Jimmy Rushing, qui accompagnato dalla bellissima orchestra diretta dal trombettista Buck Clayton, e troverete ben due album presenti in questa nuova pubblicazione su CD, proprio per celebrare la vocalità infinita di questo meraviglioso interprete di blues e di jazz, Jimmy Rushing, ovvero il primo album The Jazz Odyssey of James Rushing, e poi Jimmy Rushing and the Smith Girls. Qui al soundcheck di Radio 24 facciamo una breve pausa e torniamo con un altro meraviglioso cantante contemporaneo che coniuga jazz e R&B, ovvero Frank McComb, fra pochissimo qui su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. dalla voce potentissima tipicamente blues di Jimmy Rushing con l'orchestra di Buck Clayton alla vocalità soul di uno dei migliori protagonisti dell'attuale scena R&B, ovvero Frank McComb, meraviglioso cantante, eccellente pianista che qui abbiamo ascoltato in una sua composizione intitolata Shine da un album del 2004 intitolato The Truth. Frank McComb che ha militato in diversi organici accompagnando anche le grandi star del soul e dell'R&B americano, per un lungo periodo ha fatto parte dell'organico del sassofonista Branford Marsalis quando Branford dirigeva i suoi Buckshot LeFunk, diventa un artista indipendente, gira il mondo con le sue band e ultimamente si è esibito al Be The Rand di New York dove ha celebrato la sua passione per Donny Hathaway. Infatti Frank McComb è proprio l'erede diretto di Donny Hathaway che viene celebrato da Frank McComb in un concerto realizzato proprio al Be The Rand di New York dal quale ascoltiamo Little Ghetto Boy. Frank McComb dal repertorio di Donny Hathaway qui protagonista al soundcheck di Radio 24. Little Ghetto Boy playing in the ghetto streets. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Nick. Will you spend your days and nights in a pool room? Soundcheck, il suono della musica. E al soundcheck di Radio 24 arriva una band che ha un nome particolare, Rock Candy Funk Party, una vera festa fatta da musicisti che vengono da varie estrazioni musicali, dal rock e dal blues, ma che hanno una passione in comune, quella per il funk, quella per il groove. Infatti questo album dei Rock Candy Funk Party si intitola We Want Groove ed è stato prodotto dal batterista Tal Bergman che riunisce in una sola giornata di studio di registrazione musicisti come il bassista Mike Merritt, il tastierista Renato Neto e la partecipazione dell'eccellente bluesman Joe Bonamassa alla chitarra. Un repertorio molto divertente, molto grintoso per Rock Candy Funk Party che qui ascoltiamo in una composizione intitolata Root Down. Rock Candy Funk Party al soundcheck di Radio 24. Suono funk rock dei Rock Candy Funk Party a quello più morbido proposto dal trombettista tedesco Till Bronner, nato nel 1971, ancora non molto conosciuto nel nostro paese ma in Germania è uno dei musicisti di spicco della scena attuale jazz e soul jazz. Sì, perché Till Bronner, pur avendo suonato di tutto, è passato dal repertorio bebop alle ballad di Chet Baker, anche perché è un ottimo cantante Till Bronner, da un po' di tempo guida una band con la quale propone un repertorio originale che si rifà proprio al soul jazz della fine degli anni 60. Allora chiudiamo proprio col sound tipico di Till Bronner, augurandoci di vederlo prestissimo nel nostro paese. Till Bronner con una sua composizione intitolata FFH da un album di un paio di anni fa per la Verve Music. A tutti voi buona giornata e buona musica da Gegé Telesforo. Soundcheck, il suono della musica.